Mango Tart legge Mena Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 14. Hermione si voltò ad affrontare Malfoy con calma. Anche senza la pozione dubitava che si sarebbe sentita particolarmente preoccupata. Lo fissò mentre si avvicinava. Aveva concluso che, in generale, lui non era né autorizzato né incline a farle del male. Anche se non fosse stato tanto disperato di entrare nei suoi ricordi, la Stroud gli aveva probabilmente spiegato esattamente perché sarebbe stato sconsigliabile distruggerla psicologicamente. «Tieni molte persone in gabbia?» chiese. Lui la fissò. Era leggermente pallido, gli occhi scuri e induriti dalla rabbia che teneva malappena sotto controllo. Poteva sentirla tendersi lungo tutta la sua figura. Le venne in mente che se avesse voluto cercare di convincerlo a ucciderla, quello era probabilmente il momento perfetto. Era circondato dalla corrotta, coinvolgente magia nera della stanza. Poteva sentirla penetrare in lei mentre lo fissava. Una persona poteva perdere la testa in un ambiente come quello. Malfoy strinse le labbra in una linea dura. E lei poteva vedere la sua mascella serrarsi. C'era così tanto sotto la sua infinita freddezza. Una rabbia assopita si stava agitando, increspando appena sotto la superficie. Il salotto aveva un forte effetto su di lui. Era una scaltra provocazione e poteva farlo scattare. Si chiese come fare. Poi lui sogghignò. «Sei l'unica che tengo in gabbia, sangue sporco», disse. La sua espressione tornò bruscamente indifferente. La rabbia venne apparentemente trascinata di nuovo giù. «Non l'hai notato?» Lei arricciò il labbro. Malfoy diede un'occhiata alla stanza. Sembrava teso, ma sorrise verso di lei. «Questa è l'ala del Menor di mio padre», disse. Hermione si guardò intorno di scatto, quasi aspettandosi che Lucius Malfoy sbucasse da qualche parte con l'espressione maniacale che ricordava la sua ex cognata. «Per tua fortuna», continuò Malfoy, «è all'estero dalla fine della guerra. Mi piace sperare che non ti torturi e ti maledico orribilmente se gli capitasse di incrociarti, ma se fossi uno scommettitore dovrei ammettere che le probabilità non sono a tuo favore. Quindi ti sconsiglio di venire qui regolarmente. Vuoi un tour completo prima di andare? Solo per assicurarti che non ci sia niente di convenientemente messo in giro con cui tu possa uccidermi?» Fece un gesto verso la porta del salotto ed Hermione uscì. Lui la seguì da vicino e poi chiuse saldamente la porta. Sentì un impulso di magia mentre si chiudeva. Il senso di oscurità scomparve dall'aria intorno a loro. La porta era pesantemente circondata da protezioni. Si rese conto che probabilmente era una delle innumerevoli stanze in cui non sarebbe dovuta entrare. Si chiese se le altre stanze da cui la teneva lontana fossero similmente avvolte da una magia così complicata. «Astoria non mi ha detto che c'era un posto dove non dovevo andare. Ho dato per scontato che mi fosse permesso di esplorare l'intero Menor», disse. «Sono sicuro che sarebbe entusiasta se tu andassi incontro a un fine infelice. L'indegnità della tua sola esistenza a parte, però, potrebbe significare anche la mia fine. Allora diventerebbe una vedova ricca e libera di condurre tutti i suoi sporchi affari ancora più pubblicamente di quanto già faccia», disse Malfoy in tono indifferente. Hermione alzò lo sguardo verso di lui. «E non ti interessa?» Lui la guardò con un'espressione fredda. «Mi è stato ordinato di sposarla, perciò l'ho sposata. Non mi è mai stato comandato di preoccuparmene», disse. «Sembri schiavo quanto me», rispose Hermione con aria di scherno. Malfoy si fermò di colpo nel corridoio e si voltò lentamente verso di lei, aggrottando un sopracciglio. La osservò per diversi secondi. E lei si fermò e lo fissò di nuovo. «Stai cercando di provocarmi o di influenzare la mia fedeltà, sangue sporco? Che cosa terribilmente audace da parte tua!» Hermione studiò il suo viso per diversi momenti prima di aggrottare un sopracciglio. «Lo pensi già. Se non fosse così, ora ne saresti offeso», disse. Lui continuò a studiare il suo viso per diversi momenti prima che un lento sorriso gli si arricciasse sulle labbra. «Sai, sembri quasi di nuovo una Grifondoro». «Sono sempre stata una Grifondoro», rispose lei. Gli occhi di lui lampeggiarono debolmente. «Vero, suppongo sia così», disse. Il momento si allungò. Continuarono a fissarsi. Hermione strinse gli occhi mentre lo valutava. Sembrava impossibile che avesse solo 24 anni. Nessuno così giovane avrebbe dovuto avere una rabbia così gelidamente trattenuta dietro gli occhi. Aveva visto molti volti invecchiati dalla guerra, ma l'espressione di Malfoy era unica. Era così contenuta, ma gli occhi erano una tempesta. Sembrava che contenessero la potenza del mare. Quante persone aveva ucciso? Persone che conosceva, persone che non conosceva. Niente di tutto ciò sembrava turbarlo. Il suo volto non era segnato dalla preoccupazione. Era giovane, indolente. Poteva vedere la guerra nei suoi occhi, però. Tutte le morti che aveva causato e visto, come se il grigio in esse fosse un fantasma. Ginny. Aveva ucciso Ginny. Aveva impiccato il suo cadavere davanti a tutti i suoi amici e l'aveva lasciata lì a marcire. E Minerva. E Poppy Pomfrey, che le aveva insegnato ad essere una guaritrice per prima. E Neville, il suo primo amico nel mondo magico. Moody. Aveva ucciso tutti quelli rimasti dopo la guerra. Aveva spazzato via l'ordine della Fenice. Anche sotto l'effetto della pozione, l'odio e la rabbia che sentiva verso di lui erano ineluttabili. Non lo odiava solo emotivamente. La furia per tutto ciò che aveva distrutto era come una struttura nella sua mente. Meritava di soffrire profondamente per tutto quello che aveva fatto. Non aveva bisogno di provare emozioni per crederci. Non riusciva a capire cosa ci guadagnasse a fare tutto questo. Era ricco, ma non sembrava fare niente con i suoi soldi. Era potente, ma obbligato a mantenere l'anonimato. Non aveva hobby apparenti, a parte uccidere e leggere. Non sembrava nemmeno che gli piacesse particolarmente uccidere la gente. La sua vita sembrava bizzarramente vuota, priva di qualcosa di soddisfacente. Cosa lo spingeva? Aprì la bocca per pungolarlo, ma si trattenne. Doveva procedere con cautela. Voleva pensarci di più. Lui sorrise quando vide la sua bocca chiudersi. «Ti stai creando il mio profilo psicologico?» chiese. Hermione arricciò la bocca in un debole sorriso. «Sì», disse. «Non vedo l'ora di vederlo», disse lui, girandosi per continuare lungo il corridoio. Lei tirò su con il naso e lo seguì con lo sguardo. Ci fu un brusco scatto di tacchi e Astoria sbucò improvvisamente dietro l'angolo. Quando vide Hermione e Malfoy, strinse gli occhi e serrò le labbra. «Socializziamo tutti insieme ora?» chiese con voce saccente. «Sto solo facendo il giro del Manor», disse Malfoy, e lei sbiancò leggermente. La porta del salotto dell'ala sud era aperta. «L'avranno lasciata aperta gli elfi domestici», disse Astoria rigidamente. «Infatti», rispose lui con un sorrisetto, «sono stati senza dubbio gli elfi domestici». «Pensavo che oggi avessi degli affari da sbrigare», disse Astoria, cambiando bruscamente argomento. «Hai detto di avere la giornata piena quando ti ho detto di fermarti alla raccolta fondi questo pomeriggio. Eppure, eccoti qui a fare il giro del Manor». Hermione vacillò leggermente mentre si trovava tra loro. C'era qualcosa di intensamente instabile nella donna e lei era poco incline ad attirare la sua attenzione o la sua ira. Tuttavia, non c'era modo di ritirarsi dalla conversazione senza che fosse ovvio. Rimase ferma, osservando attentamente la scena mentre cercava di non essere invadente. Le parole che si scambiavano erano legate da implicazioni e da un'antipatia reciproca. Astoria ribolliva di risentimento appena velato. Serrò debolmente i denti mentre guardava suo marito. «Il signor Oscuro è stato abbastanza preciso nello specificare che la sangue sporco ha la precedenza su tutto il resto», disse Malfoy con espressione fredda. Astoria fece una risata acuta e isterica. «Santo cielo, non sapevo che gli eredi fossero così importanti!» disse, dando un'occhiata allo stomaco di Hermione. «Le istruzioni del Signore Oscuro sono importanti!» disse Malfoy, cominciando a sembrare annoiato. Non stava nemmeno guardando sua moglie. Infatti, si rese conto, stava guardando sopra la testa di Astoria uno specchio sulla parete che rifletteva se stesso ed Hermione. «Se mi chiedesse di allevare vermi, lo farei con altrettanta devozione.» Lei quasi sbuffò. «Ho notato che nessuna delle altre fattrici ha bisogno di tanta devozione. Non permetti a nessuno di avvicinarsi a lei. È come se la possedessi.» Ribatté Astoria in modo brusco. Malfoy ridacchiò, un luccichio crudele negli occhi quando scesero a posarsi sul viso di Astoria. Un lampo di incertezza tremolò in quelli di lei, come se fosse stata colta alla sprovvista dalla piena attenzione che suo marito le stava improvvisamente rivolgendo. «Mi è stato dato modo di capire che non volevi posare gli occhi su di lei, Astoria. Sbagliavo?» disse Malfoy, il tono leggero, quasi accattivante, ma con un lato gelido. «Preferiresti che la portassi in giro con me? All'opera? O magari che si unisca a noi sulla copertina della Gazzetta del Profeta il prossimo anno? Tutto il mondo sa già che è mia. Vuoi che lo ribadisca?» Astoria impallidì visibilmente e guardò Hermione con non celato disgusto. «Non mi interessa cosa fai con lei!» ringhiò. Poi girò i tacchi e se ne andò infuriata. L'instabilità nell'aria evaporò con il rumore dei passi che si allontanava. Malfoy fissò Astoria con fastidio. Si girò per dirigere il suo cipiglio verso Hermione. «Hai irritato mia moglie, sangue sporco», disse. Lei alzò lo sguardo verso di lui. Sembrava quasi che si aspettasse che lei si scusasse. «La mia esistenza la irrita», rispose con indifferenza. Lo guardò. «Se ti interessa, potresti facilmente rimediare.» Lui sbuffò e la guardò. «Quella pozione ti fa davvero un brutto effetto», disse. La guardò così intensamente che sembrò che la stesse memorizzando. Lei incontrò il suo sguardo con calma. Avrebbe voluto essere così calma senza sentirsi come morta. C'erano così tante cose di lui che avrebbe voluto svelare e sfruttare, se solo avesse potuto tenere a freno la sua psiche e gestire se stessa. C'erano così tante cose di lui che avevano poco senso, se solo avesse potuto avvicinarsi di più. «Mi sembra di poter respirare», disse, «come se fossi annegata così a lungo da dimenticare come sia l'ossigeno.» Poi fece una smorfia. «Il giorno dopo però lascia qualcosa a desiderare», aggiunse. Lui rise e finalmente smise di guardarla. «Se non ti lasciassi sul pavimento a vomitare, potresti fare l'errore di pensare che mi importi», disse con voce sprezzante. Lei lo guardò. «Sembri sorprendentemente preoccupato che io pensi una cosa del genere», rispose freddamente. Malfoy fece una pausa e la fissò di nuovo per un momento, prima che un lento sorriso furbo gli abbellisse le labbra. «Andiamo avanti con l'ordine del giorno, allora», disse. Hermione strinse gli occhi. «Che cos'era? Esplorare l'ala sud. Cercare di trovare le cucine. Cercare un capanno da giardino delle stalle. Trovare Malfoy e cercare di trovare un punto debole da sfruttare. Siamo già a questo punto? Sei piuttosto efficiente.» Hermione lo fissò. Voleva arrabbiarsi, ma la pozione soffocò accuratamente tale reazione. «Eri nella mia testa ieri sera», disse alla fine. «Stavo cercando di dormire, ma tu pensavi piuttosto forte», rispose lui in tono blando, spazzando via un esistente pezzo di lanugine dalla giacca e sorvegliando l'atrio come se fosse un decoratore d'interni. «Beh, divertiti», disse dopo un momento. «Le scuderie sono oltre i giardini di rose sul lato sud del Manor. Il capanno da giardino è dall'altra parte del labirinto di siepi. Ho saputo da una buona fonte che non puoi toccare le cesoie o i forconi. Potresti provare a strangolarmi con una briglia, ma in qualche modo dubito che riusciresti a farlo davvero. Sorrise ai suoi polsi prima di voltarsi e salire le scale senza dire altro. Ermione rimase in piedi e lo guardò scomparire lungo un corridoio. Poi si guardò intorno, rimuginando su di lui mentre calcolava la sua prossima mossa. Le aveva letto nel pensiero la sera prima. Non ne era sorpresa, ma ciò rendeva qualsiasi cosa facesse terribilmente futile. Non aveva nemmeno bisogno di aspettare per eseguire la legimanzia su di lei. Poteva semplicemente carpire i suoi schemi dalla superficie della sua mente. Tornò nella sua stanza, si mise il mantello e indossò gli stivali. Uscendo dal manor, alla veranda, cominciò a contare mentalmente da 2 in su. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mentre contava, lasciava che la sua mente vagasse, pensando pigramente. Draco Malfoy era un enigma. C'erano così tante contraddizioni che turbinavano sotto la sua fredda facciata. Quali erano le sue ambizioni? 22, 24, 26, 28. Sembrava che stesse accumulando potere senza averne uno scopo specifico. Sapeva di essere trattenuto da ordini a cui non poteva disobbedire. Sposare Astoria, sporcare la sua linea di sangue con una sangue sporco, tenere Hermione sotto costante sorveglianza. Seguiva i comandi di Voldemort con devozione nonostante non avesse alcun gusto apparente per essi. Cosa ne ricavava? Cosa lo spingeva? Il suo potere e il suo status sembravano inutili. Non sembrava ricavarne nulla che non avrebbe avuto come mangiamorte di medio livello. 66, 68, 70, 72. Naturalmente era possibile le sfuggisse qualcosa. Passava giorni interi lontano, durante i quali non aveva idea di cosa facesse. Potevano esserci innumerevoli cose che faceva di cui non era a conoscenza. C'era qualcosa che stava trascurando, un dettaglio che sentiva di conoscere inconsciamente ma che non riusciva a collocare. Qualcosa, come un puzzle che stava componendo, costruito da tutte le informazioni contraddittorie che aveva accumulato nella sua mente. 132, 134, 136. Sentì qualcosa in fondo alla sua mente spezzarsi e una pagina di un quaderno ben consumato e pieno della sua calligrafia le passò davanti agli occhi. La fanfara è nella luce, ma l'esecuzione è nell'oscurità. Lo scopo è sempre quello di ingannare. L'intenzione viene rivelata per distogliere l'attenzione dell'avversario. Poi viene cambiata per ottenere il fine da ciò che era inaspettato. Ma l'intuizione è saggia, prudente, e aspetta dietro la sua armatura, percependo sempre il contrario di ciò che deve percepire e riconoscendo subito il vero scopo del trucco. Lascia passare ogni primo indizio, resta in attesa di un secondo e persino di un terzo. La simulazione della verità monta più in alto glissando l'inganno e cerca, attraverso la verità stessa, di falsificare. Cambia il gioco per cambiare il trucco e fa apparire la ragione come un fantasma, fondando la più grande frode sul più grande candore. Ma la prudenza sta in guardia, vedendo chiaramente ciò che si intende, coprendo le tenebre che erano vestite di luce, e riconoscendo il disegno più abile che sembra più privo di arte. In questo modo, l'ostinazione di Pitone si scontra con la semplicità dei raggi penetranti di Apollo. Hermione fece una pausa, chiedendosi da dove fossero venute le parole. Non era un libro che ricordava, aveva memorizzato quelle parole. Non appena le vide nella memoria, si ricordò di averle memorizzate. La fanfara è alla luce, ma l'esecuzione è al buio. Le ripeté diverse volte. Poi cominciò a contare per 3 mentre procedeva attraverso il labirinto di siepi nella direzione in cui Malfoy aveva dichiarato si trovava la casetta del giardino. Il giorno passò inutilmente, pieno di numeri. non trovò niente di utile. La casetta del giardino dove Malfoy l'aveva indirizzata era chiusa a chiave. Scoprì che teneva una stalla di cavalli alati, enormi abraxani, gragnani ed etoniani. Tutti la fissavano attraverso le porte sbarrate della stalla e battevano gli zoccoli quando lei si avvicinava. Un grazioso gragnano fu l'unico che non fece un passo indietro quando lei si avvicinò. Sbatté le ali fumose e spinse il naso attraverso le sbarre, gracchiando e sporgendo la testa verso Hermione. Lei accarezzò leggermente il suo muso vellutato e sentì il calore del suo respiro sbuffante contro il palmo. Se la sua mente non fosse stata sedata, avrebbe potuto piangere nel realizzare che un cavallo era la prima cosa calda e gentile che la toccava da anni. Rimase per diversi minuti ad accarezzare la fronte del cavallo e a grattargli leggermente il mento mentre lui le annusava le vesti nella speranza di trovare una mela o una carota. Quando si rese conto che non aveva nulla da offrire, tirò indietro la testa stretta attraverso le sbarre e la ignorò. Si soffermò lì più a lungo di quanto avrebbe dovuto. Riprese i sentieri e trovò l'ingresso di Malfoy Manor. I grandi cancelli di ferro battuto erano chiusi e non si aprivano per lei. Non era sicura di cosa avrebbe fatto se si fossero aperti. Vagò per quanto le fu possibile nella proprietà. Trovò il cimitero di famiglia. Innumerevoli lapidi e mausolei sepolti sotto la neve. La famiglia Malfoy era antica. Solo un mausoleo era stato accuratamente ripulito dalla neve. Su entrambi i lati della porta erano presenti narcisi incantati, in fiore. Hermione studiò le parole incise nel marmo. Narcissa Black Malfoy, amata moglie e madre. Astra inclinant, sed non obligant. Una grande lapide per Bellatrix Lestrange stava lì vicino. Lo stemma della famiglia Black adornava il marmo. Toujours pur. Lasciò il cimitero e continuò ad esplorare la tenuta. Sembrava senza fine, isolata, ininterrotte colline innevate che si estendevano fino a dove poteva vedere, di un bianco accecante sotto il cielo blu chiaro. Quando calò la notte, Hermione continuò a vagare, fissando le costellazioni finché non sentì che gli effetti della pozione stavano svanendo. La mattina dopo si sentì così male che pensò di morire. Vomitò dalla sponda del letto e ci vollero ore prima che riuscisse a trascinarsi in bagno. Non sapeva se potesse diventare immune alla pozione, ma non pensava che sarebbe sopravvissuta per scoprirlo. Anche se Malfoy gliel'avesse mandata, dubitava che sarebbe stata in grado di sopportare di drogarsi di nuovo. Stette male per 2 giorni, schiacciata contro la finestra mentre tremava e trasudava la pozione dal suo organismo. Rimuginò su Malfoy e sul salotto dell'ala sud, ancora e ancora, quando non era troppo febbricitante per pensare coerentemente. La seconda notte sognò Ginny. Era rannicchiata accanto a un letto e singhiozzava in silenzio. Si voltò bruscamente quando Hermione entrò nella stanza. Aveva un'espressione angosciata e il petto che si alzava bruscamente ed emetteva respiri affannosi dalla bocca aperta. Anche i capelli rossi erano bagnati di lacrime. Mentre si avvicinava, i capelli le scivolarono indietro ed esposero una lunga e crudele cicatrice che si piegava lungo il suo viso, dalla fronte fino alla mascella. «Ginny», disse Hermione. «Ginny, cosa c'è? Cos'è successo?» «Non lo so», sforzò le parole e poi cominciò a piangere più forte. Hermione si inginocchiò accanto alla sua amica e l'abbracciò. «Oddio, Hermione», ansimò Ginny. «Non so come...» Si interruppe mentre lottava per respirare. Singhiozzi soffocati le sfuggirono dalla bocca mentre lottava contro gli spasmi nei polmoni. «Va tutto bene. Respira. Devi respirare. Poi dimmi cosa c'è che non va e ti aiuterò», promise Hermione mentre faceva scorrere le mani su e giù per le spalle di Ginny. «Respira e basta. Inspira fino a 4, trattieni e poi espira dal naso contando fino a 6. Ce la faremo. Respirerò con te. Va bene? Dai, respira con me. Ti tengo». Lei pianse solo più forte. «Va tutto bene», cominciò a dire Hermione mentre cominciava a fare profondi respiri dimostrativi perché Ginny li seguisse. La tenne stretta tra le braccia in modo che sentisse il suo petto espandersi e contrarsi lentamente, come un segnale inconscio. Ginny continuò a piangere per diversi minuti prima che rallentasse e il suo respiro cominciasse lentamente a rispecchiare quello di Hermione. «Vuoi dirmi cosa c'è che non va o preferisci che vada a chiamare qualcun altro?» chiese, quando fu sicura che non avrebbe continuato a iperventilare. «No, non puoi!» rispose Ginny immediatamente. «Oddio, io non...» riprese a singhiozzare sulla sua spalla. Stava ancora piangendo quando si svegliò. Ripassò il ricordo nella sua mente. Ginny piangeva raramente. Quando Percy era morto aveva pianto per giorni, ma con l'avanzare della guerra aveva esaurito le lacrime insieme a quelle di tutti gli altri. Aveva pianto a malapena quando Arthur era stato maledetto o quando George era quasi morto. Non riusciva a ricordare che avesse mai pianto così tanto. Continuò a ripetersi il ricordo nella mente, cercando di dargli un senso. Non riusciva a ricordare la cicatrice sul viso di Ginny. Nel sogno era vecchia di parecchi mesi, ma non ricordava quando potesse essersela fatta. Sembrava che qualcuno avesse inciso rozzamente parte del suo viso con un coltello. Si chiese se fosse stata lei a guarirla.